Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, puntata numero 449, nella quale parleremo di elefanti che vanno, tartarughe che vengono, gelati scottanti e cacciatori fantozziani. Speriamo di avervi incuriositi. I tried to work it away, but that just made me even sadder. I tried to keep myself busy, I ran around in circles, think I made myself dizzy. I slept it away, I sexed it away, I read it away. Dedichiamo questa puntata agli 87 elefanti che sono stati trovati uccisi per le loro zanne di avorio vicino a una riserva naturale in Botswana. Si tratta, secondo l'associazione Elephants Without Borders, della più grave strage mai registrata di questi pachidermi, che sono stati uccisi dai bracconieri per vendere a caro prezzo le loro zanne. Le proporzioni del massacro sono di gran lunga le più grandi che abbia mai visto o delle quali abbia mai saputo, ha dichiarato questo il fondatore dell'associazione Elephants Without Borders, Mike Chase. Nelle vicinanze sono stati trovati anche i corpi di 5 rinoceronti uccisi per i loro corni. A maggio il nuovo presidente del Botswana, Masisi, ha deciso di disarmare l'unità antibracconaggio del paese. Trovo molto strano che un governo mandi i suoi cittadini disarmati in prima linea per combattere reti criminali altamente organizzate e armate fino ai denti, dice Chase. Questa è la più grande riserva di elefanti rimasta sul pianeta. È un luogo molto remoto e di difficile accesso e aspettarsi che venga difeso a mani nude non sembra ragionevole. And under the boughs unbound, I'll clothe in a snowy shroud. She had no heart so hardened, all under the boughs unbound. La nostra redazione da qualche tempo tiene d'occhio i più accesi dibattiti in corso nei social sui temi della nostra trasmissione. Nei giorni scorsi ci sono stati scambi molto accesi e non sempre educati tra persone animaliste e vegane a proposito di una multinazionale che è uscita sul mercato con un nuovo gelato vegano. Molte persone vegane si sono infiammate positivamente interpretando questa novità come una sorta di vittoria. Stiamo spostando l'asse dei consumi. Piano piano la riconversione ha avuto inizio. I prodotti animali calano, i prodotti vegani aumentano. Altre persone però si sono indignate, perché la multinazionale in questione vende tantissimi prodotti di origine animale, utilizza semi OGM, testa i suoi prodotti chimici e cosmetici su animali. Inoltre abbondano le critiche su questa impresa che utilizza paradisi fiscali, lavoratori non tutelati e segnalata anche per deforestazioni e inquinamenti ambientali. Vediamo una panoramica dei punti di vista in campo. Eliana scrive: vorrei capire cosa c'è di male a piegare il mercato verso il vegetale. Il nostro sistema economico è una rete ormai talmente connessa in ogni sua parte che non è più possibile indicare i buoni e i cattivi. Chi attacca i singoli marchi o i singoli gruppi ha una visione schematica e ingenua. Tra comprare una lattuga alla Coop o un Magnum Algida non c'è nessuna differenza. Quindi, bene ricordare ai golosi che è solo un gelato in più, ma ancora più importante, evitare il tranello che ti fa credere di poter scegliere all'interno del mercato. Olmo invece scrive: non crediate che un gelato sia un prodotto innocente, anzi, come tutti i prodotti della grande distribuzione, gronda sangue di esseri viventi. Annarella scrive: non dovremmo demonizzare gli stili di vita e di consumo individuali, come se bastasse cambiare quelli per cambiare un paradigma economico, sociale e di potere imposto dall'alto e che, anche in assenza di consumatori, continua ad andare nella stessa direzione. Finiremo per assomigliare non ad attivisti in lotta con il sistema nel quale, volenti o nolenti, siamo venuti al mondo, ma a divinità crudeli e indifferenti, incapaci di perdonare il minimo peccato. Se guardo al quadro più grande, il cornetto vegano mi pare proprio l'ultimo dei problemi. E noi come redazione ci sentiamo tendenzialmente d'accordo con Annarella, ma ci auguriamo che ciascuna persona in ascolto si possa fare una sua idea intorno a questo vivace dibattito. Cornetto vegano, passiamo a parlare di un male di stagione chiamato caccia. Apertura della caccia. Quest'anno travolto dall'implacabile Filini, sempre assatanato da nuove tragiche iniziative, anche Fantozzi ha deciso di parteciparvi. Abbigliamento di Filini. Berrettone Sherlock Holmes con penna alla Robin Hood, poncio argentino di una sua zia ricca, scarpe da tennis con sopra galoche, carte topografiche e trombone da brigante calabrese. Fantozzi, berretto bianco alla marinara di sua figlia Mariangela, giacca penosamente normale stretta in vita da gigantesca cartucciera da mitragliatrice, residuato della seconda guerra mondiale, fionda elastica, siero antivipera a tracolla, gabbietta con canarino da richiamo e gatto randagio da riporto, subito fuggito durante le operazioni di partenza. Ah, ma che meraviglia! Ma qui è proprio un paradiso terrestre! Respiri, respiri! È mio! L'ho visto prima io! È mio, qualunque cosa sia, è mio! 620 cacciatori in 14 metri quadri. Erano diversi anni che non si assisteva da parte delle regioni italiane a una così generalizzata violazione delle norme che tutelano la fauna e che regolano l'attività venatoria. È una situazione gravissima quella che si sta verificando con le cosiddette preaperture. In pratica, le regioni deliberano di anticipare l'avvio della stagione di caccia ai primi giorni di settembre, rispetto a quanto stabilito dalla legge, che indica la terza domenica di settembre per l'inizio della stagione venatoria, prolungando così la già lunghissima stagione che dura più di 4 mesi. Denuncia questo il WWF in una nota. Sono 14 le regioni che ad oggi hanno approvato una preapertura, Così facendo si autorizzano moltissimi giorni di caccia in più, con migliaia e migliaia di animali uccisi, oltre al disturbo a tante specie che in questo periodo sono in fasi molto delicate della loro vita. I piccoli sono ancora immaturi, le specie migratrici devono prepararsi ai lunghi voli verso i luoghi di svernamento, tanti animali sono provati dalla scarsità di acqua e cibo causata dalle calde temperature estive e molti altri stanno ancora nidificando. Dopo 6 minuti, il perito industriale Carletti, detto il Leprotto per una malformazione congenita al labbro superiore, si accorse di essere insistentemente guardato. Un megalomane noleggiò un aereo da bombardamento. In molti casi siamo di fronte a una vera e propria sfida. Per esempio, il calendario venatorio della Sicilia è stato diffuso nel mese di agosto. La prassi è di approvare le preaperture a ridosso dell'avvio della stagione venatoria. Questo espediente disonesto consente alle regioni di evitare i ricorsi amministrativi delle associazioni animaliste e anticaccia. Un comportamento indegno da parte di una pubblica amministrazione, continua a chiosare il WWF, che non dovrebbe certo ricorrere a simili mezzucci. Ma il problema non sono solo le preaperture, in generale i provvedimenti che regolano la stagione di caccia in molte regioni non rispettano le norme a tutela della biodiversità e della fauna selvatica. Gli avvocati del WWF e di altre associazioni hanno avviato ricorsi al TAR verso le seguenti regioni: Abruzzo, Liguria, Marche, Toscana, Trentino, Sardegna, Sicilia e Umbria. Ma lei non è un uomo, è una iena! Una iena, proprio una iena! Ed è anche un bellissimo esemplare! Le ostilità cessarono al tramonto. Tutti tornarono a casa con le loro prede e i loro trofei, giusto in tempo per vedere la domenica sportiva. Questa settimana la rubrica di cucina Il pasto gentile, curata dal tosco vegan chef Gabriele Palloni, è dedicata proprio al tema della caccia. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Ed eccoci qua, ancora a parlare di caccia. Non entro nella polemica di cosa sia giusto e cosa sbagliato, ormai il mio punto di vista sulla questione dovrebbe essere chiaro. Però credo che sia possibile risolvere i conflitti offrendo alternative. Ecco quindi la mia proposta a te cacciatore che ami bosco e la natura. Prima di tutto prendi il fucile, i richiami, le trappole, eccetera, e buttali nel cassonetto. Credo che vada nell'indifferenziato. Poi armati di cestino, indossa una maglietta al contrario o alla rovescia, come si dice da noi, e vai a fa' funghi, visto che è anche piovuto e qualcosa tu raccatti. Una volta tornato a casa, con tutto ciò che hai raccolto, senza spargimenti di sangue, appropinquati a cucinare il pasticcio di bosco con olio alla nepetella. Gli ingredienti per 4 persone sono uno spicchio di aglio, 4 patate, 200 g di funghi porcini possibilmente freschi, della nepetella, olio extravergine di oliva, un cucchiaio di pan grattato, sale e pepe. Per prima cosa lasciate in infusione una tazzina di olio extravergine con abbondante nepetella, spezzando qualche fogliolina a mano affinché gli oli essenziali dell'erbetta si mescolino con l'olio. Sbucciate le patate e tagliatele a fette piuttosto sottili, quindi immergetele in acqua fredda e lasciatele in ammollo per una mezz'ora, così che perderanno amido e risulteranno più croccanti in cottura. Nel frattempo pulite i porcini, rimuovendo con un coltello l'eventuale terra e puliteli con un panno bagnato, possibilmente non lavateli sotto il getto dell'acqua. Successivamente tagliateli a pezzetti. A questo punto tritate l'aglio con la nepetella e fate soffriggere in poco olio extravergine. Aggiungete i porcini e fate cuocere per pochi minuti, aggiustando di sale e pepe. Scolate e asciugate bene le patate con un panno. Quindi fatele dorare in padella con olio extravergine, scolatele e lasciatele intiepidire. Con un pennellino ungete 4 stampini da forno e rivestiteli col pan grattato. Mescolate le patate ai funghi aggiungendo qualche altra fogliolina di nepetella e riempite gli stampi pressando bene. Potete lasciare qualche rondella di patata ben croccante come decorazione finale. Infornate a 180 gradi per 20 minuti, quindi lasciate intiepidire. Rovesciate il pasticcio nel piatto di portata, decorate con la fetta di patata croccante e una fogliolina di nepetella fresca. Condite con l'olio aromatico e portate in tavola. Sono al mare, lì dove nidifica il fratino, il piccolo trampoliere, che è una specie protetta. E quindi la puntata musicale è tutta dedicata agli uccelli. Abbiamo sentito brani dedicati a fenicotteri di tutte le specie, uccelli vari, e in particolare poniamo la nostra attenzione su un famosissimo brano, Franco Battiato, Gli uccelli. Il brano è ispirato a un poema sufi che si chiama Il linguaggio degli uccelli, di Attar, una metafora dell'uomo attraverso un viaggio iniziatico che fanno un gruppo di uccelli. Non sentiamo la versione di Battiato, bensì la versione che ne fece Alice nell'album che si chiama Gioielli rubati. Buon ascolto, e ne approfitto per andare a fare un bagnetto. A presto. Nello spazio tra le nuvole, con le regole assegnate, a questa parte di universo, al nostro sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani. Cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettorie impercettibili, codici di geometria esistenziale. Con il cambio di stagione, giochi di apertura lai e nascondono segreti di questo sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani, cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettorie impercettibili, codici di geometria esistenziale. Nell'antichissimo oroscopo Maya, i nati sotto il segno della tartaruga venivano considerati come la rappresentazione della pazienza. Nella cultura Maya, infatti, la tartaruga era la messaggera degli dèi, simbolo di longevità e di saggezza. Ma le tartarughe che questa estate 2018 hanno deposto le uova sulle spiagge italiane sono state sagge o sono state temerarie? Ce lo racconta il servizio curato dalla nostra corrispondente Francesca De Matteis. Nessuno glielo ha insegnato, non hanno potuto imparare dalla madre come succede per molti altri animali, perché nascono da sole. Eppure le vedi cercare il mare come impazzite non appena spuntano con la testolina dalla sabbia. È la schiusa delle uova di tartaruga caretta caretta, un vero spettacolo della natura a cui è possibile assistere ogni anno su alcune coste italiane. Il 2018, come si suol dire per il vino, è stato davvero una buona annata. Basta cliccare su qualsiasi motore di ricerca, nidi, tartarughe, caretta caretta, e compariranno a cascata tantissime notizie di schiuse avvenute in diverse spiagge italiane. Soltanto qualche giorno fa sono nate ben 87 tartarughine nella spiaggia del Tarantino, mentre l'isola d'Elba ha visto nascere ad agosto oltre 50 tartarughe sotto gli occhi increduli e ammirati di turisti e bagnanti. Un evento davvero eccezionale per queste latitudini. La caretta caretta infatti nidifica in Italia principalmente in provincia di Reggio Calabria, dove si trova l'area di nidificazione più estesa d'Italia, dove oltre il 60% delle tartarughe marine che frequentano le coste italiane sceglie queste spiagge per deporre le uova. Le altre mete preferite sono l'isola dei conigli di Lampedusa, Linosa e l'oasi faunistica di Vendica Rinoto. Ma a dispetto di questo spettacolo meraviglioso, la vita per le caretta caretta è davvero difficile, sia al momento della nascita fino all'età adulta. A questo proposito si stima che le tartarughe possano vivere fino a 100 anni. Nonostante ogni tartaruga sia in grado di realizzare fino a 6 nidi riproduttivi, le probabilità che i piccoli riescano ad arrivare all'età riproduttiva, ovvero 25 anni, sono bassissime. Ogni nido può avere in media dalle 40 alle 180 uova, ma si stima che su 1000 uova cresca una sola tartaruga. Da questi dati emerge palesemente come sia fondamentale tutelare tutti i siti di nidificazione, ma anche la vita di ogni singola tartaruga. È opportuno ricordare che la caretta caretta è considerata specie vulnerabile, cioè a rischio di estinzione, dallo UICN, l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Basti pensare che ogni anno 40.000 tartarughe marine muoiono a causa della pesca, intrappolate dalle reti, uccise dagli ami e dalle lenze. Poi ci sono quelle soffocate dalle plastiche e microplastiche, intossicate dai rifiuti, ferite dalle eliche delle barche. E come se non bastasse, le spiagge dove depongono le uova sono spesso invase dai bagnanti o sono troppo illuminate, condizione che provoca il disorientamento delle tartarughine che confondono l'orizzonte luminoso del mare sbagliando traiettoria, come è successo quest'anno a Specchiarica nel Tarantino, dove moltissime tartarughe, probabilmente ingannate dalla luce dei lampioni, sono andate dalla parte opposta, attraversando la litoranea, finendo così per essere travolte dalle auto. È dunque fondamentale per continuare a godere anche in futuro di questo straordinario e misterioso spettacolo della natura che è la schiusa delle uova, che i cittadini siano sempre più consapevoli dei rischi e delle minacce che incombono su questa specie. Fortunatamente in Italia lo sforzo per la protezione di questi animali è un impegno comune di decine di centri di recupero, WWF, Legambiente, Blue Conservancy e altri onlus che si battono per la conservazione e la tutela della caretta caretta, anche se con non poche difficoltà per mancanza di risorse. Ci auguriamo quindi che il ministro dell'Ambiente Costa, che quest'anno durante il Tarta Day ha adottato simbolicamente una tartaruga, vada proprio in questa direzione. Francesca De Matteis per Restiamo Animali, Roma. Le tartarughe caretta caretta, nate dove volevano, quando volevano, senza curarsi minimamente del fatto che noi non le avevamo considerate. E noi chiudiamo questa puntata con una notizia, parliamo di moda. Addio a plastica e pelle, il nuovo materiale è vegetale e made in Italy. Si chiama Nuo Leaf ed è composto interamente da cellulosa vegetale. La notizia ci parla di questa famiglia Antonelli, padre e figlia Marcello e Marta, che dopo avere già nel 2012 inventato un tipo nuovo di materiale ligneo, la Nuo Lignea, capace di sostituire la pelle con enormi vantaggi ambientali, a distanza di 6 anni hanno dato luce a un altro materiale ecologico, Nuo Leaf, composto interamente da cellulosa vegetale tessuta e spalmata, che ha in sé la resistenza del tessuto e l'aspetto dei migliori materiali in uso nella moda e nel design in genere. Ne parliamo soprattutto perché ci interessa la totale assenza di parti animali, ma anche di sostanze provenienti da idrocarburi. Il materiale è quindi biodegradabile, leggero, resistente a tante tonalità e molti impieghi, adatto per realizzare abbigliamento outdoor, borse, calzature e prodotti di design. Debutterà al MIPEL di Milano questo settembre e poi andrà a Parigi in occasione delle settimane della moda. Auguriamo un grande successo a questo materiale che pensiamo sia utile e necessario. Vi saluta la nostra redazione al completo, composta da Elisa Moretti, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 450 della trasmissione Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.